pittore cieco, ma so leggere nel cuore la tua anima ribelle, la tua pioggia, le tue parole, quel vestito quanto ti dona, così sensuale quanto sei bella, sembra fatto apposta per farmi innamorare di nuovo, mia stella. In ogni tuo c'è del mio, in ogni mio c'è del tuo profondo. Ti porterei a Parigi, ma con te ho già tutto il mondo. Ti hanno levato un seno, ti hanno spaccato il cuore, ferito amore bello, la tua femminilità è intatta, amore. Non si fermeranno mai, non sarà certo questa brutta storia a frenare la nostra vita, a farci cambiare metà. Quelli come noi condividono tutto, il dolore. E poi, quando c'è amore, si vive su un altro pianeta, si vive proprio una nuova vita. Ora che la tempesta è passata sul tuo corpo e ti ha divorato l'anima e anche tutto il resto, nell'indifferenza generale, ricordati, mio amore, che ho bisogno di te tutti i minuti, tutte le ore. Dedica questa prova a chi invece perde e muore. Invece noi qui siamo, io e te, a festeggiare il tuo ritorno nella luce. Oggi sei più bella ai miei occhi, tu che con eleganza hai divorato tutti i miei sguardi. Sarà certo questa brutta storia a frenare la nostra vita, a farci cambiare meta. Quelli come noi condividono tutto, anche il dolore. E poi, quando c'è amore, si vive su un altro pianeta, si vive proprio una nuova vita. Quelli come noi non si fermeranno mai, non sarà certo questa brutta storia a frenare la nostra vita, a farci cambiare meta. Quelli come noi condividono tutto, anche il dolore. E poi, quando c'è amore, si vive su un altro pianeta, si vive proprio una nuova vita.